Filo conduttore sono il lavoro fantastico che stanno facendo gli operatori e le operatrici della città. È un lavoro che ricorre, è un lavoro che sorprende. Ci sono delle novità che sono il dialogo forte fatto con i quartieri, c'è una programmazione puntuale che arriva anche in luoghi di prossimità e di vicinanza con le persone cittadine, con la vita quotidiana dei mesi estivi. Molte cose all'aperto, molte cose gratis, sono anche punti di novità. C'è un punto di novità forte che è Filla, il luogo in cui ci troviamo adesso. L'area è quella della Montagnola, la Montagnola su cui agiscono Frida nel Parco e Montagnola come rassegna. C'è un Esprit Nouveau, che è uno spazio nuovo che viene restituito alla città, una zona che viene interessata anche dalla programmazione di adiacenze. Ci sono moltissimi appuntamenti, viene richiesta molta pazienza e soprattutto molta curiosità. E quello che aggiungo anche è una particolarità che ho notato, estremamente capillare, un'attenzione... Sì, io ho usato un termine che è soffusa, perché è diffusa in maniera tenue, e questo significa potersi avvicinare alle persone con una maniera delicata, ma anche con una possibilità data di trovare ognuno il proprio posto di quiete o di divertimento, di svago, di ricreazione o di noia dentro quello che è il grande calendario di appuntamenti della città. Alcune novità per quanto riguarda le sedi? Allora, ho già citato l'Esprit Nouveau, io citerei anche Villapini con la rassegna portata avanti da Orchestra Senza Spine. Poi ci sono cose che arrivano in corso d'opera, per cui questo è quello che riusciamo da anticipare ad oggi, poi vedremo gli aggiornamenti nei prossimi giorni.